America 24 di Mario Platero. Buongiorno a tutti da New York, vi saluta Mario Platero, sono il corrispondente americano del Sole 24 Ore, vi do il benvenuto a questa prima puntata di America 24. La città oggi è da profondo inverno, freddina, grigia, piovigginosa ed è anomala perché le strade sono deserte, i mercati sono chiusi, la gente è a casa ma in vacanza. Perché? Perché oggi si celebra Martin Luther King, il Martin Luther King Day, grande festa nazionale. Eccolo King, il 28 agosto del 1963, quando mise i diritti civili e gli orrori della segregazione razziale davanti alla coscienza degli americani e del mondo. Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Free at last, finalmente liberi. Da allora l'America è cambiata. C'è un afroamericano alla Casa Bianca, impensabile negli anni 60, quando con il sacrificio di King si alzava il movimento. Ricordate Pete Seeger? We shall overcome someday. Poi le conquiste civili e poi la forza di un cambiamento più vasto. Start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Bob Dylan ci diceva che i tempi stavano cambiando, i tempi sono cambiati. Neppure King avrebbe immaginato che a 60 anni dalla sua morte l'America potesse festeggiare, come farà fra due giorni, mercoledì 20 gennaio, il primo anniversario di un presidente afroamericano alla Casa Bianca. E dunque celebriamo anche noi con una terza canzone dedicata proprio a lui, a King, dagli U2 e da Bono. Razzismo archiviato, dunque. Obama sabato scorso celebra King e dice: abbiamo fatto grandi progressi in nome del dottor King, ma il suo lavoro e il nostro viaggio restano incompiuti. Lo dice Obama, c'è ancora razzismo in America. Sentiamo Marco Vincenzino del Global Strategy Project e Michael Callinger, scienziato politico alla Brookings Institution. Marco. Ovviamente negli Stati Uniti il razzismo continua ad esistere, non la realtà che esisterà sempre. Però l'obiettivo, lo scopo è di diminuirlo il massimo possibile. Michael? Sì, no, quello certamente esiste e non so, no, immagino che non sono solo giovani e ci sono gente che la pensano così e oggigiorno con internet e tutti quei modi nuovi di comunicare usano e è una vergogna, è peccato, però esiste e in certo modo esisterà nel futuro. Obama non parlava a caso, ha sofferto attacchi razzisti in campagna elettorale da Bill Clinton, per esempio, che si difende così. I think that they played the race card on me and we now know from memos from the campaign and everything that they plan to do it all along. Giorni fa persino il suo alleato Harry Reid, capo della maggioranza democratica al Senato, considera l'impatto di Obama in funzione, e usa il termine, del suo essere quasi negro, termine ormai fuori dal lessico americano politico. Reid chiede scusa. I've apologized to the president, I've apologized to everyone that with in the sound of my voice that I could have used a better choice of words. E allora, Vincenzino? Harry Reid è un sessantenne, una persona che è cresciuta negli anni 50 e 60, ai neri si riferivano come negro, mentre oggigiorno è la parola afro-american o black, nero. E allora penso che lui sta usando la retorica della sua generazione. Callinger? Tutti i due partiti cercano e usano qualsiasi occasione di far vedere che l'altro partito sono razzisti, allora prendono l'occasione che hanno, per esempio più recentemente, come hai accennato, il senatore Reid che ha detto che Obama si è riuscito a farsi eleggere perché non è il tipico nero che non ha l'aspetto, non parla in quel modo, e subito i repubblicani hanno detto che quello sono ma cose che non si possono dire. Reid ha dovuto scusarsi subito, fare scuse direttamente a Obama, eccetera. I pregiudizi razziali, insomma, sono work in progress, si superano nel tempo e non si risolvono con un colpo di spugna, ma Obama deve anche occuparsi della politica breve. Ieri era in Massachusetts per una sfida epocale. Domani si vota per il seggio che fu di Ted Kennedy. Martha Coakley, procuratore federale, non amatissima e in difficoltà. Scott Brown, un repubblicano, avanza e la contestazione si sente. That's the kind of leader the people of Massachusetts need now more than ever. That you need somebody. Per questo i democratici tremano. Se perdono in Massachusetts e il seggio dei Kennedy, perdono la faccia, la maggioranza blindata dei 60 voti in Senato e chissà, forse anche la riforma sanitaria. La posta in gioco è nazionale, è altissima, perché guarda già alle elezioni di novembre di metà mandato. Il risultato? Domani notte. Ci sono mille altre notizie, pettegolezzi, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Eccone alcune. I mercati riaprono domani, attesa per le trimestrali bancarie. City va per prima. E poi sport. 47. Sean Green calling ahead. Go Jets! Ieri notte i newyorkesi Jets hanno fatto il miracolo, vanno in finale di divisione football e qui a New York siamo tutti in paralisi estatica, ma per Woody Johnson della grande fortuna, Johnson & Johnson, il proprietario dei Jets, la vittoria è amara. 10 giorni fa ha perso la figlia Carey a Los Angeles in circostanze misteriose. E chiudiamo con King, con il cambiamento e con gli afroamericani. In USA sono 41 milioni, il 13,5% della popolazione. Il Mississippi è lo stato con la popolazione di colore più elevata, il 38%. Ci sono già 1,2 milioni di piccole aziende in America, 90 miliardi di dollari di fatturato gestite da afroamericani. Il reddito medio degli afroamericani, $34,200. A parte le sacche di povertà, la maggioranza è già classe media. Con me, dice Obama, l'America è comunque cambiata. Sentiamolo. At this defining moment, change has come to America. Se i problemi razziali restano, l'America guarda in avanti. Con Obama alla Casa Bianca, la percezione della discriminazione cambierà ancora, soprattutto fra i giovani. E da noi? Il New York Times di un paio di giorni fa riferisce degli incidenti di Rosarno, degli autobus e dei treni partiti con gli afro-italiani deportati e osserva: l'Italia in materia di diritti civili per i neri è come l'America degli anni 60. Forse è una provocazione, ma del cambiamento abbiamo bisogno anche noi. Ed eccoci alla canzone del giorno, Change is Going to Come, di Sam Cooke, Il cambiamento verrà, che dedichiamo a Martin Luther King e alla sua giornata. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. Ringrazio per la produzione a New York Pierpaolo Bozzano, Stefania Arcudi e il resto della squadra, Tommaso Carboni, Federico Soncini, Chiara Basso. Li troverete sul nostro sito america24.com e naturalmente in studio con me, Vinny Sintorino. Hey Vinny, how you doing? Hey Mario, doing great. A change gonna come. Oh, yes it will. And I go downtown. New York è tutto. Saluti dal vostro amico Mario Platero. Goodbye and get going. Hang around.